Tao Qian sembrava deciso a stabilirsi lì. Non lo aveva detto alla sua amica, ma desiderava non muoversi più per dare il tempo a Lin di trovarlo. Erano diverse settimane che sua moglie non si metteva in contatto con lui. Eliza, invece, contava le ore, ansiosa di proseguire il viaggio e a mano che trascorrevano i giorni, si sentiva dominata da sentimenti contraddittori nei confronti del compagno di avventura. Gli era riconoscente per come la proteggeva e si prendeva cura di lei. Sempre attento alla sua buona alimentazione, la copriva di notte, le somministrava erbe, applicava aghi per rafforzarle il qi, come diceva, ma era irritata dalla sua calma, che interpretava come mancanza di audacia. L'espressione serena e il facile sorriso di Tao Qian a volte la catturavano e altre la indisponevano. Non capiva perché non sentisse minimamente la tentazione di far fortuna nelle miniere, mentre tutti quanti intorno a lui e in particolare i suoi compatrioti cinesi non pensavano ad altro. «Neanche a te interessa loro», replicò imperturbabile quando lei glielo rimproverò. «Ma io sono venuta qui per un altro motivo, e tu perché sei venuto?» «Perché ero marinaio, non avevo pensato di fermarmi qui fino a quando tu non me l'hai chiesto». «Non sei un marinaio, sei un medico». «Qui posso tornare a essere medico, almeno per un po'. Avevi ragione, c'è molto da imparare in questo luogo». Questi erano i progetti di Tao in quei giorni. Si mise in contatto con gli indigeni per esaminare le erbe dei loro sciamani. Si trattava di miserabili gruppi di indiani vagabondi ricoperti da lerce pellicce di coyote e cenci europei, che nella corsa a loro avevano perso tutto. Andavano di qua e di là con le loro donne, stanche, i loro bambini affamati, cercando di lavare l'oro dei fiumi nelle fini ceste di vimini, ma appena trovavano un luogo adatto venivano cacciati a suon di pallottole. Quando venivano lasciati in pace, costruivano i loro piccoli villaggi di capanne o di tende e si stabilivano fino a quando non erano obbligati a partire di nuovo. Familiarizzarono con il cinese che ricevevano mostrandogli rispetto perché lo consideravano un uomo medicina e amavano condividere il loro sapere. Eliza e Tao Qian si sedevano con loro in cerchio intorno a una cavità in cui cucinavano sulle pietre calde una pappina di ghiande o arrostivano bacche e locuste che a Eliza sembravano deliziose. Poi fumavano, conversando in un misto di inglese, di segni e delle poche parole della lingua dei nativi che avevano imparato. In quei giorni sparirono alcuni minatori yankee e benché i loro corpi non fossero stati ritrovati, i loro compagni accusarono gli indiani di averli assassinati e per rappresaglia presero d'assalto un villaggio, fecero 40 prigionieri tra donne e bambini e come monito giustiziarono 7 uomini. «Se trattano così gli indiani, che sono i padroni di questa terra, i cinesi sicuramente li trattano molto peggio, Tao». «Devi renderti invisibile come me», disse Eliza con terrore quando venne a sapere cos'era successo. Ma Tao Qian non aveva tempo per imparare i trucchi dell'invisibilità. Era troppo occupato a studiare le piante. Compiva lunghe escursioni per raccoglierne degli esemplari da confrontare con quelle che si usavano in Cina. Affittava un paio di cavalli o camminava a piedi per miglia e miglia sotto un sole inclemente, portandosi Eliza come interprete per raggiungere il ranch dei messicani che vivevano in quella regione da generazioni e ne conoscevano la flora e la fauna. Avevano da poco perso la California nella guerra con gli Stati Uniti e quei grandi ranch, che prima ospitavano centinaia di lavoratori a giornata in un sistema comunitario, iniziavano a cadere a pezzi. I trattati tra i due paesi erano rimasti sulla carta. All'inizio i messicani, esperti di estrazioni, insegnarono a chi era giunto da poco i procedimenti per ottenere l'oro, ma ogni giorno arrivavano sempre più forestieri a invadere un territorio che sentivano loro. Nella pratica i gringo li disprezzavano, come facevano con tutti i rappresentanti di qualsiasi altra razza. Prese l'avvio un'instancabile persecuzione contro gli ispanici, cui veniva negato il diritto di sfruttare le miniere in quanto non americani. Mentre venivano accettati come tali i farabutti australiani e gli avventurieri europei. Migliaia di braccianti senza lavoro tentavano la fortuna nelle miniere, ma quando la persecuzione dei gringo si faceva intollerabile, emigravano a sud o si trasformavano in malviventi. In alcune delle rustiche case delle famiglie rimaste, Eliza poteva trascorrere un po' di tempo in compagnia femminile. Un lusso raro, che in quei pochi momenti le restituiva la tranquilla felicità dei bei tempi nella cucina di mamma Fresia. Erano le uniche occasioni in cui poteva evadere dal mutismo obbligato e parlare la sua lingua. Quelle madri, forti e generose, che sgobbavano gomito a gomito con gli uomini nei lavori più pesanti, provate dalla fatica e dall'indigenza, si commuovevano davanti a quel ragazzo cinese dall'aspetto così fragile, stupite dal fatto che parlasse lo spagnolo come una di loro. Le consegnavano volentieri i segreti della natura usati da secoli per alleviare i più diversi malanni e già che c'erano le ricette dei loro piatti saporiti che lei annotava sui suoi quaderni, certa che prima o poi sarebbero tornate utili. Nel frattempo lo Zhong Yi ordinò a San Francisco le medicine occidentali che l'amico Ebenezer Hobbs gli aveva insegnato a usare a Hong Kong. Ripulì anche un pezzo di terra vicino alla capanna, lo recintò per difenderlo dai cervi e piantò le erbe fondamentali per la sua professione. «Santo cielo, Tao, pensi di fermarti qui fino a quando non saranno sbocciati questi rachitici germogli?» protestava Eliza, esasperata alla vista di quei talli sbiaditi e di quelle foglie gialle, senza ottenere più che un gesto vago di risposta. Sentiva che ogni giorno trascorso l'allontanava dal suo destino, che Joaquin Andieta si addentrava sempre più in quella regione sconosciuta, forse in direzione delle montagne, mentre lei perdeva il suo tempo a Sacramento facendosi passare per il fratello scemo di un guaritore cinese. Era solita affibbiare a Tao Cieni peggiori epiteti, ma aveva il buon gusto di farlo in castigliano, esattamente come di certo faceva lui quando le rivolgeva la parola in cantonese. Avevano perfezionato i segni per comunicare davanti agli altri senza parlare e la stretta convivenza li aveva portati ad assomigliarsi tanto che nessuno metteva in dubbio la loro parentela. Se non erano occupati con qualche paziente, andavano in giro per il porto e per negozi a chiacchierare e a indagare su Joaquin Andieta. Eliza cucinava e ben presto Tao Chien si abituò ai suoi piatti, anche se di tanto in tanto scappava alle mense cinesi della città, dove poteva ingollare tutto quello che la pancia riusciva a contenere per un paio di dollari, una bazzecola se si teneva conto che una cipolla costava un dollaro. Davanti agli altri comunicavano a gesti, ma da soli lo facevano in inglese. Malgrado gli occasionali insulti nelle due lingue, trascorrevano la maggior parte del tempo lavorando fianco a fianco come buoni compagni e occasioni per ridere certo non mancavano. Tao era sorpreso di poter condividere con Eliza momenti di buon umore nonostante gli inevitabili inciampi della lingua e le diversità culturali. E comunque erano proprio queste differenze a strappare le risate. Non riusciva a credere che una donna facesse e dicesse tali esagerazioni. La osservava con curiosità e inconfessabile tenerezza, spesso ammutoliva di ammirazione per lei, le attribuiva il coraggio di un guerriero, ma quando la vedeva cedere gli sembrava una bambina ed era vinto dal desiderio di proteggerla. Anche se era aumentata un po' di peso e aveva un colorito migliore, era ancora debole, era evidente. Non appena il sole tramontava iniziava ad assopirsi, si avvolgeva nella coperta e si addormentava e lui si sdraiava al suo fianco. Si abituarono a tal punto a queste ore di intimità, in cui respiravano all'unisono, che i corpi si adattavano da soli nel sonno e se uno si girava, anche l'altro lo faceva per non separarsi. A volte si svegliavano incollati tra le coperte, avvinti. Se era lui a destarsi per primo, godeva di quegli attimi che gli riportavano alla memoria le ore felici insieme a Lin, immobile per impedirle di cogliere il suo desiderio. Non sospettava che la stessa cosa succedesse anche a Eliza, grata a quella presenza maschile che le consentiva di immaginare come sarebbe stata la sua vita con Joaquin Andieta se avesse avuto maggior fortuna. Nessuno dei due alludeva mai a quanto succedeva di notte, come fosse un'esistenza parallela della quale non erano coscienti. Non appena si vestivano, la segreta malia di quegli abbracci spariva completamente e tornavano a essere due fratelli. In rare occasioni Tao Chien si allontanava da solo per misteriose escursioni notturne dalle quali rientrava con discrezione. Eliza si asteneva dall'indagare perché le bastavano usarlo. Era stato con una donna. Poteva persino distinguere i profumi dolciastri delle messicane. Lei rimaneva sepolta sotto la coperta a tremare nel buio e a vigilare sul minimo suono impugnando un coltello spaventata, chiamandolo con il pensiero. Non sapeva giustificare questo desiderio di piangere che la invadeva, quasi fosse stata tradita. Comprendeva vagamente che forse gli uomini erano diversi dalle donne, per quel che la riguardava non provava il minimo bisogno di sesso. I casti abbracci notturni erano sufficienti a placare la sua smania di compagnia e di tenerezza, e nemmeno quando pensava al suo antico amante sperimentava l'urgenza dei tempi della stanza degli armadi. Non sapeva se in lei amore e desiderio fossero la stessa cosa e se in mancanza del primo il secondo non potesse insorgere, o se la lunga malattia in nave avesse distrutto qualcosa di fondamentale nel suo corpo. Una volta aveva osato chiedere a Tao se poteva ancora avere figli perché per diversi mesi non aveva più mestruato e lui le aveva assicurato che non appena avesse recuperato forze e salute sarebbe tornata alla normalità e che proprio a quello scopo le applicava i suoi aghi. Quando l'amico scivolava silenziosamente al suo fianco dopo le scappatelle, lei fingeva di dormire profondamente, anche se in realtà rimaneva sveglia per ore, offesa da quell'odore di un'altra donna che si era installato tra loro. Da quando erano sbarcati a San Francisco, era tornata al pudore al quale Miss Rose l'aveva educata. Tao Chien l'aveva vista nuda durante le settimane della traversata, la conosceva esternamente e intimamente, ma comprese le sue ragioni e non fece domande, limitandosi a indagare sul suo stato di salute. Perfino quando le collocava gli aghi, stava ben attento a non urtare la sua ritrosia. Non si svestivano in presenza l'uno dell'altro e vigeva un tacito accordo per rispettare l'intimità nell'uso della fossa dietro la capanna, che serviva da latrina, ma per il resto si condivideva tutto, dal denaro ai vestiti. Molti anni dopo, riguardando le annotazioni relative a quell'epoca, Eliza si sarebbe chiesta con stupore perché nessuno dei due volesse ammettere l'indubitabile attrazione che provava, perché si rifugiassero nel pretesto del sonno per toccarsi e durante il giorno ostentassero freddezza. Avrebbe concluso che l'amore per qualcuno di un'altra razza pareva loro impossibile, convinti com'erano che nel mondo non ci fosse posto per una coppia come loro. «Tu pensavi solamente al tuo amante», avrebbe precisato Tao Chien, che allora avrebbe avuto già i capelli grigi. «E tu, Lin?» «In Cina si può avere più di una moglie, e Lin è sempre stata tollerante». «E poi ti facevano ribrezzo i miei piedi grandi», l'avrebbe preso in giro. «È vero», avrebbe replicato lui con la massima serietà. A giugno si abbatté un'estate impietosa. Le zanzare si moltiplicarono, le serpi uscirono dai loro buchi per passeggiare impunemente e le piante di Tao Chien sbocciarono rigogliose come in Cina. Le orde di argonauti continuarono ad arrivare, sempre più numerose. Siccome Sacramento era il porto di accesso, il suo destino non fu quello di dozzine di altri paesi che spuntavano come funghi nei pressi dei giacimenti auriferi, si sviluppavano rapidamente e sparivano all'improvviso non appena si esauriva il minerale di facile estrazione. La città cresceva di minuto in minuto, venivano aperti nuovi spazi e i terreni, che non si regalavano più come all'inizio, venivano venduti ai prezzi salati di San Francisco. Si costituì un abbozzo di governo e frequenti erano le assemblee che deliberavano dettagli amministrativi. Fecero la loro comparsa speculatori, legulei, evangelisti, giocatori di professione, banditi, tenutarie con ragazze di vita e altri araldi del progresso e della civiltà. Di lì passavano le centinaia di uomini infiammati di speranza e ambizione diretti ai giacimenti, come pure quelli sfiniti e ammalati che facevano ritorno dopo mesi di duro lavoro, pronti a dilapidare i loro guadagni. Il numero dei cinesi aumentava di giorno in giorno e ben presto si contrapposero due bande rivali. I Tongs erano clan chiusi, i cui membri si aiutavano reciprocamente come fratelli nelle difficoltà della vita quotidiana e del lavoro, che favorivano però anche corruzione e crimine. Tra i cinesi arrivati da poco c'era un altro Zhong Yi e con lui Tao Chien ebbe modo di trascorrere ore di completa felicità paragonando le terapie e citando Confucio. Gli ricordava Ebenezer Hobbes perché non si accontentava delle cure tradizionali e cercava anche nuove strade. «Dobbiamo studiare la medicina dei Fang Wei, la nostra non è sufficiente», gli diceva, e lui era pienamente d'accordo perché più imparava, più aveva la sensazione sia di non sapere niente, sia che la vita non gli sarebbe bastata per studiare tutto quello che gli mancava. Eliza mise in piedi una bottega di empanadas che vendeva a peso d'oro, prima ai cileni e poi anche agli yankee che mostrarono fin da subito di gradirle. Iniziò preparandole con carne di vacca, quando poteva comprarla dai ranchero messicani che portavano bestiame rubato da Sonora. Ma siccome in genere scarseggiava, L'esperimentò con carne di cervo, lepre, oca selvatica, tartaruga, salmone e persino orso. I suoi fedeli clienti consumavano tutto con sommo piacere, perché le alternative erano fagioli in scatola e maiale salato, l'invariabile dieta dei minatori. Nessuno disponeva di tempo per cacciare, pescare o cucinare, frutta e verdura non si riusciva a trovarne e il latte era un lusso più raro dello champagne. Tuttavia non mancavano farina, strutto e zucchero e si trovavano anche noci, cioccolato, qualche spezia, pesche e prugne secche. Eliza iniziò a preparare torte e biscotti che ottennero lo stesso successo delle empanadas e anche pani in un forno di terracotta che improvvisò ricordando quello di mamma Fresia. Se riusciva a procurarsi uova e pancetta, affiggeva un'insegna in cui annunciava la colazione. Allora gli uomini si mettevano in fila pur di sedersi in pieno sole davanti a un tavolo sgangherato. Quelle deliziose vivande, preparate da un cinese sordomuto, ricordavano loro le domeniche in famiglia nelle loro case così lontane da lì. L'abbondante colazione, che prevedeva uova fritte con pancetta, pane appena sfornato, torta di frutta e caffè a volontà, costava $3. Alcuni clienti, emozionati e riconoscenti, perché da mesi non assaggiavano niente di simile, depositavano un dollaro supplementare di mancia nel barattolo. Un giorno, a metà estate, Eliza si presentò a Tao Chien con i suoi risparmi in mano. «Con questi possiamo comprare i cavalli e partire», gli annunciò. «Per dove?» «Per andare a cercare Joaquin». «Io non sono interessato a trovarlo, io rimango qui». Ma non vuoi conoscere questo paese? Ci sono molte cose da vedere e da imparare, Tao. Mentre io cerco Joaquin, tu puoi acquisire la tua famosa saggezza. No, no, le mie piante stanno crescendo e poi non mi piace andare di qua e di là. Va bene, io me ne vado. Da sola non arriverai lontano. Questo lo vedremo. Quella notte dormirono ognuno a un'estremità della capanna, senza rivolgersi la parola. Il giorno dopo Eliza uscì presto per andare a comprare il necessario per il viaggio, compito non certo facile, visto il suo ruolo di muto, e tornò alle 4 del pomeriggio insieme a un cavallo messicano, brutto e pieno di spellature, ma forte. Comprò anche degli stivali, 2 camicie, pantaloni resistenti, guanti di cuoio, un cappello a tesa larga, un paio di sporte di alimenti secchi, un piatto, una tazza e un cucchiaio di latta, un buon coltello d'acciaio, una borraccia per l'acqua, una pistola e una carabina che non sapeva caricare né tantomeno utilizzare. Passò il resto del pomeriggio a organizzare i bagagli e a cucire i gioielli e i soldi rimasti in una fascia di cotone, la stessa che usava per schiacciarsi i seni, sotto la quale portava sempre con sé l'involto di lettere d'amore. Si rassegnò ad abbandonare la valigia con i vestiti, la sottoveste e gli stivaletti che ancora conservava. Con la coperta castigliana improvvisò una sella, proprio come aveva visto tante volte fare in Cile. Si tolse i vestiti di Tao Chien, che aveva indossato per mesi, e si provò quelli appena acquistati. Poi affilò il coltello con una striscia di cuoio e si tagliò i capelli all'altezza della nuca. La sua lunga treccia nera rimase per terra come una biscia morta. Si guardò in un frammento di specchio rotto e si ritenne soddisfatta. Con il viso sporco e le sopracciglia ingrossate con una linea a carbone, poteva ingannare chiunque. In quel momento arrivò Tao Chien, di ritorno da uno degli incontri con l'altro Zhong Yi, e per un attimo non riconobbe il cowboy armato che aveva invaso la sua proprietà. «Domani parto, Tao. Grazie di tutto, sei più di un amico, sei un fratello, mi mancherai». Tao Chien non rispose. Quando scese la sera, lei si sdraiò vestita in un angolo e lui si sedette fuori nella brezza estiva a contare le stelle. Il segreto. Il giorno in cui Eliza partì da Valparaiso, nascosta nella stiva dell'Emilia, i 3 fratelli Somers cenarono all'Hotel Inglese, ospiti di Paulina, la moglie di Feliciano Rodriguez de Santa Cruz, e rientrarono tardi alla loro casa di Cerro Alegre. Non seppero della scomparsa della ragazza fino a una settimana dopo, perché la immaginavano insieme a mamma Fresia nella tenuta di Agustín del Valle. Il giorno successivo, John Somers firmò il contratto di capitano del Fortuna, il nuovissimo vapore di Paulina. Con un semplice documento contenente i termini dell'accordo, si concluse l'affare. Era stato sufficiente che si fossero visti una volta per fidarsi reciprocamente e non avevano tempo da perdere in minuzie legali. La smania di arrivare in California li accomunava. Nonostante gli appelli alla prudenza, pubblicati sui giornali e ripetuti in apocalittiche omelie dai pulpiti della Chiesa, l'intero Cile era irretito dalla stessa lusinga. Il capitano impiegò solo qualche ora a reclutare l'equipaggio del suo vapore perché le lunghe file di postulanti, contagiati dalla febbre dell'oro, continuavano ad aggirarsi per i moli. Molti di loro trascorrevano la notte dormendo per terra pur di non perdere il posto. Fra lo stupore di altri uomini di mare che stentavano a capire le sue ragioni, John Somers si rifiutò di caricare passeggeri, di modo che la sua imbarcazione avrebbe viaggiato praticamente vuota. Non offrì spiegazioni, aveva in mente un progetto da filibustiere per evitare che i suoi marinai disertassero una volta arrivati a San Francisco, ma lo tenne per sé, perché se l'avesse reso pubblico non ne avrebbe trovato uno solo disposto a imbarcarsi. Non comunicò nemmeno alla ciurma che prima di prendere la rotta per il nord avrebbero compiuto un insolito giro a sud, attendeva di trovarsi in alto mare per farlo. E dunque lei si sente in grado di guidare il mio vapore e di tenere sotto controllo l'equipaggio, non è così, capitano? Gli chiese per l'ennesima volta Paolina, mentre gli allungava il contratto da firmare. Sì, signora, non abbia paura, posso salpare nel giro di 3 giorni. Molto bene. Sa di cosa c'è bisogno in California, capitano? Di prodotti freschi, frutta, verdura, uova, formaggio di buona qualità, insaccati. Questo è ciò che noi venderemo là. Ma come? Arriverà tutto marcio. Lo trasporteremo con ghiaccio, disse lei imperturbabile. Con cosa? Con ghiaccio. Lei prima andrà a sud a prendere il ghiaccio. Sa dove si trova la laguna di San Rafael? Vicino a Puerto Aysén? Mi fa piacere che conosca quelle zone. Mi hanno detto che lì si trova uno dei più bei ghiacciai azzurri. Voglio che riempia il fortuna di pezzi di ghiaccio. Cosa ne pensa? Mi scusi, signora, ma mi sembra veramente una follia. Proprio così. Per questo non è venuta in mente a nessuno. Si porti dei barili di sale grosso, una buona provvista di sacchi e mi avvolga dei pezzi belli grandi. Ah, immagino che dovrà far coprire i suoi uomini per non farli congelare. E già che ci siamo, capitano, mi faccia la cortesia di non parlarne con nessuno, così non ci ruberanno l'idea. John Somers si congedò da lei sconcertato. Prima pensò che la donna fosse impazzita, ma poi, più ci rimuginava, più l'avventura lo intrigava. Inoltre non aveva niente da perdere. Lei poteva rovinarsi, lui avrebbe comunque percepito lo stipendio, anche se il ghiaccio si fosse sciolto strada facendo. E se quella follia avesse avuto successo, lui avrebbe ricevuto come da contratto un bonus di tutto rispetto. La settimana dopo, quando scoppiò la notizia della scomparsa di Eliza, lui era diretto al ghiacciaio con le caldaie che ansimavano e non ne fu messo al corrente che al ritorno, quando approdò a Valparaíso per caricare i prodotti che Paulina aveva predisposto, venissero trasportati nel nido di neve in California, dove il marito e il cognato li avrebbero venduti a un prezzo parecchio superiore al loro valore. Se andava tutto come aveva pianificato, con 3 o 4 viaggi del Fortuna, lei avrebbe avuto più denaro di quanto avesse mai sognato. Aveva calcolato quanto ci avrebbero messo altri impresari a copiare la sua iniziativa prima di infastidirla con la loro concorrenza. E in quanto a lui, beh, portava anche lui un articolo che pensava di aggiudicare al miglior offerente. Libri. Quando Eliza e la Tata non rientrarono a casa il giorno stabilito, Miss Rose mandò il cocchiere con un biglietto per assicurarsi che la famiglia del Valle fosse rimasta ancora nella tenuta e che Eliza stesse bene. Un'ora dopo apparve alla sua porta la moglie di Agustin del Valle, molto allarmata. Di Eliza non sapeva niente, disse. La famiglia non si era mossa da Valparaíso perché suo marito era prostrato da un attacco di gotta. Non vedeva Eliza da mesi. Miss Rose ebbe sufficiente sangue freddo per dissimulare. Oh, si era sbagliata, si scusò. Eliza era a casa di un'altra amica, si era confusa, le era molto riconoscente per essersi disturbata a venire personalmente. La signora del Valle non credette a una sola parola, come era da attendersi, e prima che Miss Rose riuscisse ad avvisare il fratello Jeremy in ufficio, la fuga di Eliza Somers era sulla bocca di tutta Valparaíso. Il resto del giorno Miss Rose lo trascorse a piangere e Jeremy Somers a congetturare. Ispezionando la camera di Eliza, trovarono le lettere d'addio che rilessero diverse volte nella vana ricerca di qualche pista. Non riuscirono nemmeno a localizzare mamma Fresia per interrogarla e fu solo allora che si resero conto che della donna che per 18 anni aveva lavorato per loro non conoscevano nemmeno il cognome. Non le avevano mai chiesto da dove venisse né se avesse famiglia. Mamma Fresia, come gli altri servi, apparteneva al vago limbo dei fantasmi utili. Valparaiso non è Londra, Jeremy. Non possono essere andati molto lontano. Bisogna cercarle. Ti rendi conto dello scandalo che scoppierà quando inizieremo a indagare tra i nostri amici? Cosa vuoi che mi interessi quello che dirà la gente? La cosa più importante è trovare Liza presto, prima che si metta nei guai. Francamente, Rose, se ci ha abbandonati a questo modo, dopo tutto quello che abbiamo fatto per lei, vuol dire che nei guai c'è già. Cosa vuoi dire? Che tipo di guai? Chiese Miss Rose inorridita. Un uomo, Rose. È l'unico motivo per cui una ragazza può commettere una stupidaggine di tali proporzioni. Tu lo sai meglio di chiunque altro. Con chi può essere Liza? Non riesco neanche a immaginarlo. Miss Rose poteva immaginarlo perfettamente. Sapeva chi era il responsabile di quella tremenda disgrazia, quel tizio dall'aspetto funereo che alcuni mesi prima aveva portato a casa della merce, il dipendente di Jeremy. Non ne conosceva il nome, ma l'avrebbe scoperto. Tuttavia, non disse niente al fratello perché credette di essere ancora in tempo per riscattare la fanciulla dalle insidie di un amore difficile. Ricordava con precisione da notaio ogni particolare della sua esperienza con il tenore viennese. L'angoscia di allora era ancora a fior di pelle. Non lo amava più, era vero, se l'era strappato dall'anima da secoli, ma bastava bisbigliare il suo nome per sentire nel petto un fragoroso rintocco di campana. Karl Bretzner era la chiave del suo passato e della sua personalità. Il fugace incontro con lui aveva determinato il suo destino e la donna in cui si era trasformata. Se si fosse innamorata di nuovo come allora, pensò, si sarebbe comportata allo stesso modo, pur sapendo che quella passione le avrebbe spezzato la vita. Forse Eliza avrebbe avuto miglior fortuna e l'amore avrebbe imboccato una strada dritta. Forse nel suo caso l'amante non era impegnato, non aveva figli e una sposa tradita. Doveva trovare la ragazza, affrontare quel maledetto seduttore, obbligarli a sposarsi e poi, a cose fatte, presentare la situazione a Jeremy, che alla lunga avrebbe finito per accettarla. Sarebbe stato difficile, data la rigidità del fratello nelle questioni d'onore, ma come aveva perdonato lei, avrebbe perdonato anche Liza. Persuaderlo sarebbe stato compito suo. Non si era assunta il ruolo di madre in tutti quegli anni per rimanersene a braccia conserte davanti a un errore della sua unica figlia, concluse. Mentre Jeremy Somers si rinchiudeva in un silenzio opportuno e dignitoso, che tuttavia non lo poteva salvaguardare dalle chiacchiere sfrenate, Miss Rose si mise in azione. Dopo pochi giorni aveva scoperto l'identità di Joaquin Andieta e con orrore aveva appreso che si trattava niente meno che di un ricercato dalla giustizia. Era accusato di aver falsificato la contabilità della compagnia britannica di importazione ed esportazione e di aver rubato della merce. Capì che la situazione era ben più grave di quanto si fosse immaginata. Jeremy non avrebbe mai accettato un simile individuo in seno alla famiglia. Peggio ancora, non appena fosse riuscito a mettere le mani addosso all'ex dipendente, l'avrebbe sicuramente mandato in prigione, anche se si fosse trattato del marito di Eliza. A meno che io non trovi il modo di obbligarlo a ritirare le accuse contro quel verme e non riesca a ripulirgli il nome per il bene di tutti noi, borbottò tra sé Miss Rose, furibonda. Per prima cosa doveva trovare gli amanti, poi avrebbe pensato a come sistemare il resto. Si guardò bene dal menzionare la sua scoperta e passò il resto della settimana a fare indagini a destra e a manca, fino a quando, nella libreria Santos Tornero, le parlarono della madre di Joaquin Andieta. Riuscì a conoscere il suo indirizzo semplicemente chiedendo nelle chiese, esattamente come si immaginava. I sacerdoti cattolici conoscevano a uno i loro fedeli. Il venerdì a mezzogiorno si presentò alla donna. Si recò da lei piena di boria, animata da una giusta indignazione e pronta a dirgliene quattro, ma a mano che avanzava per le stradine contorte di quel quartiere, dove non aveva mai messo piede, iniziò a ridimensionarsi. Si pentì del vestito scelto, si dispiacque per quel cappello troppo civettuolo e per gli stivaletti bianchi, si sentì ridicola. Bussò alla porta, imbarazzata per un senso di vergogna che si trasformò in sincera umiltà non appena vide la madre di Andieta. Non si era immaginata tale devastazione. Era una donnina da nulla, dagli occhi febbricitanti e l'espressione triste. Le sembrò anziana, ma guardandola meglio, capì che era ancora giovane e che doveva essere stata bella, ma non c'era dubbio che fosse ammalata. La ricevette senza scomporsi, abituata alle signore ricche che si recavano da lei per commissionarle lavori di cucito e di ricamo. Si passavano l'indirizzo l'una con l'altra e quindi non era strano che una dama sconosciuta bussasse alla sua porta. Questa volta si trattava di una straniera, lo si poteva dedurre da quell'abito color farfalla. Nessuna cilena avrebbe osato vestirsi così. La salutò senza sorridere e la fece entrare. Si sieda, signora, prego, in cosa posso servirla? Miss Rose si sedette sul bordo della sedia che le veniva offerta e non riuscì a spiccicare parola. Tutto quello che aveva pianificato di dirle era svanito dalla sua mente in un lampo di totale compassione per quella donna, per Eliza e per se stessa. E le lacrime avevano preso a sgorgarle come ruscelli, lavandole il viso e l'anima. La madre di Joaquin Andieta, turbata, le prese una mano tra le sue. Che cosa le succede, signora? La posso aiutare? E allora Miss Rose aveva iniziato a raccontarle tra i singhiozzi nel suo spagnolo da gringa che la sua unica figlia era sparita da più di una settimana, che era innamorata di Joaquin, che si erano conosciuti qualche mese prima e che da allora la ragazza non era più stata la stessa. Si aggirava in preda alle fiamme dell'amore, era evidente a tutti, tranne che a lei, che era stata talmente egoista e distratta da non essersene accorta in tempo, ma adesso era tardi perché i due erano scappati. Eliza si era rovinata la vita esattamente come lei aveva fatto a suo tempo e continuando a sciorinare una cosa dopo l'altra, senza riuscire a trattenersi, arrivò a raccontare a quell'estranea ciò che mai aveva rivelato. Le parlò di Karl Brezner e dei suoi amori orfani e dei 20 anni trascorsi da allora col cuore addormentato e il ventre disabitato. Pianse copiosamente le perdite taciute nel corso della sua vita, i momenti di rabbia nascosti per buona educazione, per i segreti che le gravavano addosso come i ceppi di un prigioniero, per il prezzo con cui aveva salvato le apparenze e per l'ardente gioventù buttata al vento, semplicemente a causa della cattiva sorte di essere nata donna. E quando alla fine non ebbe più fiato per singhiozzare, rimase seduta senza riuscire a capire che cosa le fosse successo né da dove venisse quella diafana sensazione di sollievo che iniziava a pervaderla. «Prenda un po' di tè», disse la madre di Joaquin Andieta dopo un lunghissimo silenzio, posandole una tazza sbeccata in mano. «Per favore, la prego, mi dica se Eliza e suo figlio sono amanti. Non sono impazzita, vero?» mormorò Miss Rose. «Può darsi, signora. Anche Joaquin aveva perso la testa, ma non mi rivelò mai il nome della ragazza. Oh, mi aiuti! Devo ritrovare Eliza!» «Glielo posso assicurare. Non è con Joaquin. Come fa a dirlo? Non mi ha detto che la bambina è sparita solamente da una settimana. Mio figlio se n'è andato a dicembre.» «Se n'è andato, ha detto. E dove?» «Non lo so.» «La capisco, signora. A suo posto anch'io cercherei di proteggerlo. So che suo figlio ha problemi con la giustizia. Le do la mia parola d'onore che lo aiuterò. Mio fratello è il direttore della compagnia britannica di importazione ed esportazione. Farà quel che gli dirò. Non rivelerò a nessuno dove si trova suo figlio. Voglio solo parlare con Eliza. Sua figlia e Joaquin non sono insieme, mi creda. So che Eliza l'ha seguito. Non può averlo seguito, signora. Mio figlio se n'è andato in California.»